Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano, il vostro sguardo su tutti gli eventi e i fatti che accadono al di là dei nostri confini. I saluti vi arrivano anche da Andrea Roccabella, che darà musica e ritmo a questa puntata, Antonio Talia, Eleonora Aragone e Silvia Mannati, che confezionano con me questo programma. Le coordinate per interagire con noi ve le ricordo: 349-238-6666, sia per gli sms che per i messaggi WhatsApp. Cercateci su Twitter, siamo Nessun Luogo 24, oppure il mio personale Giampaz. Su Facebook la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. In questa prima pagina di Nessun Luogo è Lontano andiamo in Giappone. Sono Kekkano Omomio Kanjinagara, Atarashi Tochiji Toshite, Shikkari To Tosei. E la voce rotta dall'emozione che avete sentito è quella di Yuriko Koike, che è la prima governatrice donna di Tokyo. È stata eletta 2 giorni fa, forse avrete sentito la notizia su questo GR ieri, oggi la stampa soprattutto internazionale ne ha dato risalto. Il divertissement musicale che ci siamo permessi è la sigla di un cartone animato, si chiama Sally la Maga, non è giocata a sproposito, perché la stessa governatrice in tempi piuttosto recenti era apparsa in pubblico vestendo proprio i panni della protagonista di questo cartone animato, che è una parte della cultura giapponese, forse quella più popolare e più conosciuta. Noi andremo un po' più in profondità di quello che appunto il mondo giapponese raramente raccontato, devo dire, sui nostri media. Tutto quello che è Estremo Oriente raramente appunto finisce sulle pagine dei nostri giornali. Oggi cercheremo in qualche modo di colmare questa lacuna e lo faremo grazie anche alla prima ospite che saluto e a cui do il mio benvenuto, Giulia Pompili, giornalista del Foglio, esperta di Estremo Oriente e politica giapponese. Giulia, buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie mille. Allora Giulia, stai con noi, ascoltiamo il ritratto che abbiamo fatto di Yuriko Koike e nel caso bacchettaci, Yuriko Koike è stata eletta governatrice di Tokyo con 1 milione di voti di distacco dal suo avversario Hiroya Masada. Reduce da una campagna elettorale molto combattuta nella quale ha citato Giovanna d'Arco, il famoso personaggio manga Sally la Maga, Koike sarà la prima donna ad occupare questa carica in Giappone. 64 anni, figlia di petrolieri, ha studiato al Cairo e parla correttamente arabo. Dopo una carriera da giornalista televisiva, Koike entra in politica nel 92, diventa ministro dell'ambiente nel 2003 e nel 2007 è ministro della difesa. Ambientalista, donna di spicco in una scena politica dominata dagli uomini come quella giapponese, Yuriko Koike è anche il più ultranazionalista dei 3 candidati. In politica estera viene considerata un vero falco per le sue continue dichiarazioni contro la Corea del Nord e le sue prese di posizione per minimizzare le responsabilità giapponesi nei crimini commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il primo brevissimo ritratto, iniziamo appunto a tratteggiare questo personaggio. Giulia Pompili, intanto manca qualcosa, aiutaci a colmare se mancano dei tasselli in questa figura che già l'abbiamo capito, è piuttosto controversa. Sì, secondo me, oltre alla vostra scheda, è importante capire che la Koike non è un outsider della politica, ovviamente. È una che è stata ministro dell'ambiente per vari anni, è stata ministro della difesa, la prima donna a essere ministro della difesa, ed è stata ministro per gli affari di Okinawa e i territori del nord, che sono insomma è un ministero complicato in Giappone, perché sappiamo che Okinawa è la parte più anti-americana giapponese, dove ci sono le basi militari americane, e i territori del nord sono quelli per cui il Giappone litiga ancora oggi con la Russia. Quindi è una che di gavetta politica ne ha fatta. E hai fatto bene a sottolinearlo. Per chi è poco avvezzo alla politica giapponese e anche al tipo di governo locale, diventare appunto governatrice di una città, di una metropoli come Tokyo è assimilabile a un nostro sindaco romano o, voglio dire, a un sindaco europeo, o vi sono delle differenze? Tokyo è l'equivalente di una prefettura praticamente per la densità abitativa e per il numero di abitanti, quindi anche per la disponibilità di budget che ha la prefettura di Tokyo non è assolutamente comparabile con l'elezione a sindaco di Roma, per esempio. Certo è che l'elezione della Koike dal punto di vista così più della gente popolare è stata vista in modo simile, no? Perché la prima donna a prendere questa carica, ci sono state altre donne che hanno raggiunto la carica di governatore, ma mai nella città di Tokyo. E poi sì, a volte poi diciamo il racconto di genere, per essere per forza sempre politicamente corretto, appunto va a offuscare magari altre esperienze precedenti di altre donne politiche. Anche dal piccolo ritratto che abbiamo fatto si è evinto che allora Shinzo Abe, il premier, aveva designato un altro candidato. È stato una contromossa interna, è stato uno schiaffo? Che cosa è successo all'interno del partito? Sì, i racconti politici molto divertenti, devo dire, come sempre la politica giapponese, raccontano di questa donna che si è dimessa da ministro della difesa nel 2007 dopo solo 54 giorni e poche settimane fa è andata nell'ufficio del Partito Liberal Democratico, che è quello al governo e presieduto da Shinzo Abe, a chiedere il supporto per diventare sindaco, per fare la campagna elettorale, e le è stato negato, questo supporto le è stato negato. Quindi lei a quel punto, da vera donna di ferro, come sono la maggior parte delle donne che fanno politica in Giappone, ha deciso di correre da sola. E non è uno schiaffo a mio avviso, perché sicuramente è stato vissuto male, la sconfitta sì. Nel partito è stata vissuta male, ma sono sicura che prima del 2020, prima delle Olimpiadi, ci sarà un motivo, un modo per riavvicinarsi. È molto facile in Giappone che delle persone così con ruoli strategici poi cambino casacca o si riavvicinino al partito. Insomma, difficilmente Abe può adesso cacciarla, come aveva detto, come si sussurrava nei palazzi, dal partito. È molto molto difficile. Quello che può accadere più facilmente, insomma, che tenterà una seduzione, ovviamente in termini sì, politici, certo, per farla rientrare nell'alveo e anzi magari farsi forza di questa figura che tante attenzioni, anche a livello internazionale sta destando. Devo certo. dire che giornalisticamente gli ingredienti ci sono un po' tutti, no? Sì, perché c'ha sì, queste certo. doppie anime, l'ultranazionalismo, poi quest'anima un po' più scherzosa, pop, e poi il fatto appunto che è una donna, è un evento storico, insomma gli ingredienti ci sono tutti. Hai citato però Giulia Pompili, giornalista del Foglio, esperta di cose giapponesi. L'appuntamento scadenza delle Olimpiadi del 2020 sì. È un banco di prova di che tipo? Beh, sicuramente dal punto di vista finanziario, innanzitutto direi, perché gli ultimi due sindaci di Tokyo sono caduti per problemi legati al finanziamento, legati anche in qualche modo ai finanziamenti che il governo ha posto per le Olimpiadi del 2020. Quindi la prima prova che la Koike ha di fronte è quella di riuscire a non farsi fregare dall'enorme disponibilità economica che avrà per le Olimpiadi. Già ci sono stati vari casini legati allo stadio, alla costruzione del nuovo stadio, insomma diciamo è... che la confusione, la farraginosità del meccanismo olimpico si vede in tutte sì, le sedi esatto. olimpiche, quello diciamo è fuori discussione. Però hai fatto una menzione interessante, che è quella della disponibilità di denaro, che ovviamente renderà poi il suo ruolo ancora più cruciale. Fra l'altro un tuo collega, stavolta del Sole 24 Ore, Stefano Carrer, proprio oggi sul Sole ricordava questa ricetta, questi nuovi fondi che Abe sta destinando all'economia sì. giapponese per tentare di risollevare una situazione che dal punto di vista economico non è esattamente rosea, ma questo da un bel po' di anni. Sì, lo abbiamo visto con il G7 che hanno fatto nella prefettura di Mie. In Giappone tutto si trasforma in una sorta di promozione, come anche in altri paesi asiatici ovviamente, in una sorta di promozione a livello turistico e di soft power. Sally la maga, la Koike, che si è trasformata in cartone animato proprio perché sì, tutto ciò che diventa pop poi è esportabile all'estero, no? E soprattutto fa presa sui nuovi, sui giovani e sui millennials, così li chiamiamo, no? Sì. Sì, che forse questo aspetto che stai tratteggiando è, non voglio generalizzare, però come dire, è accarezzato da vari paesi orientali, no? Questo sì, aspetto, sì, certo. Del in Corea, ecco. Anche in Corea il K-pop, tutto quello che riguarda il pop coreano è molto esportato, no? Esportabile, è arrivato addirittura in Occidente, però sicuramente fa leva sui giovani cinesi, giapponesi, così come il Giappone sta promuovendo attraverso questi grandi eventi tutto ciò che riguarda il cibo, il turismo, la musica, i prodotti commerciali. Funziona bene, fino adesso ha funzionato bene, certo non è abbastanza, e lo vediamo da quello che sta succedendo tra Abe e Taro Aso, il ministro delle finanze, e il governatore della banca centrale giapponese. Insomma, l'Abenomics non funziona così bene, ci stanno provando, ecco. Su questo ci torniamo. Grazie mille Giulia Pompili, giornalista del Foglio, per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. E da uno schiaffo, mezzo schiaffo, ma l'avete capito da quello che ci raccontava Giulia Pompili, di Yuriko Koike a Abe, a uno schiaffo musicale, perché le note, la melodia che sentite è quella di Akurio, che è un rapper appunto giapponese, che invece si scaglia spesso e volentieri appunto contro il premier giapponese. Questo anche per smontare un po', no, quel stereotipo che forse abbiamo nella testa, ma parlo per me da fruitore, da lettore totalmente ignorante delle cose dell'estremo oriente, no? Per cui tutto fatto di manga, di pop, e il rapper invece ad esempio esiste anche lì. Su queste note diamo il benvenuto al secondo ospite che ci aiuta a comporre questa pagina tutta giapponese. Il professor Giulio Pugliese insegna all'Università di Heidelberg in Germania ed è esperto di relazioni internazionali dell'area Asia e Pacifico. Professor Pugliese, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, abbiamo introdotto e accarezzato un po' di temi che vediamo un attimo di concretizzare con lei. Giulia Pompili, ma anche il nostro ritratto di Yuriko Koike, ha in qualche modo mostrato che il Giappone negli ultimi mesi e anni sta cambiando volto. C'è un'anima ultranazionalista che sta forse emergendo in maniera prepotente, o quantomeno così i media raccontano. C'è un tentativo di riarmo dell'esercito e di un abbandono di quella politica pacifista che ha caratterizzato il Giappone negli ultimi decenni. È vero? Quanto sta cambiando faccia il Giappone? Il Giappone sta sicuramente spostandosi a destra, anche e soprattutto attraverso la leadership politica di personaggi ultranazionalisti quali Abe. Questo è innegabile, però va detto che si sta spostando a destra da posizioni minimaliste, e quindi il risultato finale di questo tipo di spinta a un ruolo più attivo del Giappone nella scena politica internazionale sarà di fatto molto limitato. Sicuramente non sarà, per esempio, possibile associarlo e compararlo a quello che l'Italia gioca in seno alla NATO come alleata degli Stati Uniti d'America, che ha per esempio previsto l'intervento armato in Afghanistan in virtù dell'articolo 5 della NATO, o anche come parte della coalizione dei volenterosi in Iraq. Sì. Questo non succederà molto probabilmente in Giappone, perché rimarranno fortissime le spinte dell'opinione pubblica in senso contrario. Ecco, allora, professore, intanto ricordo il suo account Twitter, che è giappugliese con la doppia P di Palermo, giappugliese, sì. Doppia P come Giappone, appunto. Se non sarà un ruolo muscolare, un ruolo militare nello scacchiere, appunto, dell'Estremo Oriente, che tipo di ruolo può essere? Leggevo appunto su Sole 24 Ore, citavo prima Stefano Carrer, che dice che le nuove iniezioni, la nuova manovra di stimoli fiscali che è stata approvata dal governo giapponese dovrebbe in qualche modo rivitalizzare un'economia che in un passato non troppo recente era un bel motore mondiale, poi i numeri negativi insomma non gli hanno dato ragione. Allora sarà un ruolo più che altro economico, se quello militare le è precluso in qualche modo? È molto complicata la situazione. Sicuramente c'è la possibilità per il Giappone di giocare un ruolo economico in funzione di un modello di sviluppo sostenibile e soprattutto in qualità di paese che sta già affrontando le sfide che caratterizzeranno molti paesi sviluppati, molte economie mature, quali quella tedesca, francese e italiana, cioè la crisi principale in Giappone, la struttura economica del Giappone è definita da una crisi demografica con una depopolazione e un invecchiamento della popolazione, e quindi il Giappone si sta già in qualche modo sta già affrontando questi problemi, perché la disponibilità anche fiscale per sostenere questo tipo di economia sarà sempre minore. E, in termini di ordine internazionale, del ruolo politico che il Giappone può giocare, c'è la possibilità di avere un ruolo militare sufficientemente attivo, ma allo stesso tempo di carattere difensivo, e cioè il Giappone può diventare una sorta di difensore dell'ordine internazionale preesistente, quindi giocare un ruolo di sponda con paesi occidentali quali gli Stati Uniti d'America, ma anche l'Unione Europea, per fare in modo che l'ordine internazionale vigente con il suo network, con la sua rete di organizzazioni quali Banca Mondiale, Nazioni Unite e quant'altro, rimanga in qualche modo la struttura che definisce l'ordine internazionale esistente, quindi lo status quo, perché c'è una sfida che adesso è in corso da parte soprattutto di più platealmente da parte della Russia, ma anche da parte della Cina, a mettere in discussione questo tipo di ordine internazionale. Quindi il Giappone può giocare un ruolo di sponda che è molto importante, perché le potenzialità ancora rimangono, è ancora la terza economia mondiale, sì. E questo penso che sia importante. Ecco, ha citato Cina, ha citato Russia, uno dei nodi nevralgici sono sicuramente le rivendicazioni cinesi sulle isole Senkaku, che al tuttora sono amministrate da Tokyo, e sì. Nel caso in cui, come dire, il livello dello scontro diplomatico si alzasse, è chiaro che insomma lì si capirebbe anche la preparazione militare dei due paesi. E di recente pubblicazione questo libro bianco, questo report, no, che il Giappone fa, in cui ad esempio punta il dito contro la corsa agli armamenti cinesi. In qualche modo, come dobbiamo leggere questo puntare il dito contro il grande colosso e nemico che continua a rivendicare quelle isolette di fronte alla costa? Sono scaramucce diplomatiche, economiche? No, purtroppo no, non lo sono, perché nonostante a parere di moltissimi esperti queste isolette chiamate dai giapponesi le Senkaku e dai cinesi le Diaoyu, sì, hanno un valore strategico minore, economico quasi nullo, perché è ancora antieconomico estrarre risorse minerali dalle zona economica esclusiva che circonda queste isole, e anche dal punto di vista del pescato non possiamo dire che si può rischiare una guerra per queste isolette, per questo tipo di risorse ittiche. No, il valore è puramente nazionalista ed è puramente simbolico, nonostante queste isole siano scarsamente abitabili. Sì. È vero però, sì, che comunque questo rientra, se vogliamo, in una costruzione, in una preparazione di quel cambio della Costituzione di cui tanto si parla, no? che sarebbe la svolta in senso militarista e non più neutrale e pacifista. Appunto il Giappone, per esempio, sempre trattando dei rapporti Cina-Giappone, il Giappone denuncia nell'ultimo anno più di 570 introduzioni di aerei cinesi nello spazio aereo giapponese. Sono tutti messaggi che certo si vanno letti, però destano preoccupazione, mi sembra, no? Assolutamente. Di fondo c'è un sovvertimento dei rapporti di potenza in Asia orientale, per cui una Cina che diventa sempre più evidentemente potenza egemonica regionale si imbaldanzisce, ma di contro c'è anche un atteggiamento più assertivo del Giappone nell'asserire i propri interessi nazionali. Queste isole sono contese, la storia di queste isole è complicata e la Cina ha un legittimo claim su questi isolotti, che sono comunque amministrati dal Giappone dal 1895, questo è importante dirlo, con una breve parentesi americana. E la pubblicità che le incursioni cinesi ricevono è importante per un altro motivo, perché rinforza la spinta del premier nazionalista Abe Shinzo a riarmare il Giappone, diventa una sorta di propaganda che fa buon gioco ad Abe, e quindi rinforza e quindi legittima di contro le spinte agli armamenti del Giappone, che va detto comunque rimangono ancora, partono da posizioni minimaliste e rimarranno con moltissimi paletti all'ingresso in scenari bellici di alleati, in primis gli Stati Uniti d'America. Professor Pugliesi, stia con me, perché intanto al 349-238-6666 sia WhatsApp che gli SMS ci sono un paio di sollecitazioni. Giovanni dice: veramente in Iraq è stato attivo un battaglione di soldati giapponesi ufficialmente con compiti di ricostruzione, ma tant'è, dice Giovanni, in effetti a noi risulta che fino al 2008 vi fosse questo battaglione di soldati. E invece su WhatsApp ci ricorda un altro ascoltatore, Gabriele, che prima delle Olimpiadi il Giappone ospiterà anche i mondiali di rugby, che sono tra gli eventi sportivi più seguiti al mondo, non c'è dubbio, ma è anche vero che la macchina economica, il volano economico che può avere un appuntamento, quello dei giochi olimpici, non è paragonabile assolutamente con i mondiali di rugby. Un'ultimissima domanda, professore, per lei, che è di natura economica, ma non solo. Tutte le volte che abbiamo raccontato assegnazioni di giochi olimpici, come dire, c'è stato sempre un racconto di una delusione, dell'occasione persa, dell'occasione mancata, perché ritardi nella costruzione, perché poi gli investimenti non sono andati a buon fine. Secondo lei il Giappone potrebbe essere una prova contraria, finalmente, che quelle occasioni non vengono sprecate, cioè un appuntamento sportivo di carattere mondiale poi venga trasformato in un'occasione virtuosa per il paese, sinteticamente? Assolutamente, questo fa parte proprio del modello economico a cui mi riferivo prima, cioè le Olimpiadi di Tokyo, proprio perché Tokyo ha un panorama urbano già ben sviluppato, con strutture preesistenti ancora funzionali, c'è la possibilità di rivendere queste Olimpiadi, se i politici giapponesi e chi è dietro all'organizzazione ci crede veramente, come Olimpiadi sostenibili, dove le strutture preesistenti possono essere adattate alle nuove esigenze del XXI secolo. Se io potessi rispondere brevemente a Giovanni sullo spiegamento delle forze giapponesi in Iraq, a Samawa, e la cosa interessante è che non avevano la possibilità di rispondere di ingaggiare militarmente possibili minacce, se non attaccati prima di tutto, e quindi venivano circondati da forze della coalizione di volenterosi che erano a rotazione lì per proteggere i giapponesi, quindi l'ingaggio giapponese in Iraq era limitatissimo, quindi i giapponesi erano protetti avvicendevolmente da Olanda, poi Regno Unito, poi Australia. Insomma, un paradosso che poi svela anche questo ruolo, questa storia così, così strana e così ambigua per certi versi recente giapponese. Grazie mille, professor Giulio Pugliese, per essere stato con noi, docente all'Università di Heidelberg, esperto in relazioni internazionali. Seguitelo su Twitter, Giapugliese. Noi abbiamo accarezzato l'economia, sentiamo l'informazione economica, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo è Lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano, la prima tutta dedicata alla neoelezione, la neoeletta Yuriko Koike, governatrice di Tokyo. E grazie a lei, a questa sua nomina storica, per certi versi siamo andati un po' più dentro le pieghe di quello che è il ruolo del Giappone, che ruolo potrà avere in futuro, un paese molto spesso molto poco raccontato. Adesso voltiamo pagina e andiamo in Africa, in particolare in Uganda. E andiamo su quelle strade polverose di Terra Rossa, quelle che da Kampala arrivano a Entebbe, poi giù fino a Buindi e poi su a nord verso Guru, scusate, e Lira, ma in particolare a Kampala, che l'evento che parte oggi darà i suoi frutti in termini scenografici e anche di notizie più virtuosi. Perché? Perché parte quest'oggi il Gay Pride in Uganda, appunto. E ve ne diamo conto, ve lo raccontiamo perché è alla sua quinta edizione e perché l'Uganda non è esattamente un paese facile per la comunità gay e lesbica. Già in una scorsa edizione di Nessun Luogo Lontano cercammo di tirare un po' le somme di quello che era la condizione degli attivisti, dei gay, delle lesbiche in Uganda, e sentimmo Frank Mugisha, che è un attivista ed è il fondatore di SMUG Sexual Minorities Uganda, il quale ci ha raccontato quelli che sono i suoi sentimenti a 5 anni dalla morte di quell'attivista per i diritti David Kato, che fu barbaramente assassinato, quegli episodi di stampa omofoba in cui venivano fatte delle liste dei gay, appunto, nelle varie città ugandesi. Abbiamo raggiunto Frank Mugisha proprio a poche ore dalla partenza di questo Gay Pride, che durerà circa una settimana, e la grande parata, poi diciamo grande ma si aspetta circa 300 persone, grande relativamente, appunto, che culminerà domenica prossima. Bene, a poche ore dall'inizio Frank Mugisha risponde alla domanda: com'è cambiata negli ultimi 5 anni la vita per voi nel paese africano? The life has not changed so much. La vita dei gay ugandesi non è cambiata così tanto e la comunità LGBT viene ancora perseguitata. Soprattutto è ancora presente una forte esclusione sociale. Quando sei gay, per esempio, è difficile trovare qualcuno che ti affitti casa. Vieni attaccato se apri un'attività e sei discriminato nell'accesso ai servizi sanitari. Quando fai coming out, dichiarandoti gay o lesbica, rischi di essere sottoposto a ricatti e alla pubblica gogna, anche da parte di membri delle forze dell'ordine. La situazione non è cambiata molto, però oggi c'è più dialogo col governo e siamo riusciti ad aprire un vero dibattito sull'omosessualità in Uganda. Luci ombre su questo paese africano, la zona, la regione dei Grandi Laghi, e qualche segnale di speranza a sentire il racconto, appunto, di Patrick c'è. Abbiamo deciso anche di avere il punto di vista di Nila Ghoshal, che è una ricercatrice di Human Rights Watch, si occupa proprio delle comunità gay e lesbiche, aveva già lavorato in particolare in Burundi e in Kenya. A lei la stessa domanda: come si è evoluta la situazione in Uganda e se è migliorata rispetto a quel terribile anno che è stato il 2013? La situazione in Uganda è complicata. Rispetto al 2013 ci sono stati sicuramente dei miglioramenti. Per esempio, tra il 2013 e il 2014, quando è stata approvata la legge che prevedeva la pena di morte per il reato di omosessualità, si sono verificati un sacco di arresti e altre forme di attacchi. Le persone interpretavano la legge a loro modo. Le persone LGBT venivano cacciate dalle loro case, i lavoratori gay licenziati. Possiamo dire che in quel periodo ci sia stato un vero aumento dei casi di discriminazione. Oggi non vediamo più così tanti arresti per conduct e la polizia applica le leggi esistenti in modo più blando ed elastico, anche se rimane comunque in vigore la legge che condanna il sesso omosessuale. Anche l'atmosfera sociale è leggermente cambiata. Si registrano meno violenze nei confronti della comunità LGBT, anche se continuano a verificarsi. In particolare, spesso le persone omosessuali sono discriminate nell'accesso alla sanità. Quindi, anche se il quadro non è al 100% roseo e i politici talvolta minacciano di reintrodurre la legge del 2013, per ora la situazione in Uganda è ancora calma. But for now, it's a bit calm. E come immaginate, questo è un dossier bello caldo e anche facilmente strumentalizzabile. Quanto i partiti politici ugandesi hanno strumentalizzato appunto questo dossier? Sentite ancora che cosa dice Nila Goshal di Human Rights Watch. Siamo stati sorpresi di vedere che nelle ultime elezioni il tema non è stato così tanto strumentalizzato. Il presidente Museveni si è accorto che è stato visto cambiare posizione così tante volte nel periodo in cui si dibatteva la legge sull'omosessualità che gli è convenuto fare un passo indietro. Museveni si è accorto che approvare la legge non avrebbe portato vantaggi al paese, perché non avrebbe migliorato i rapporti dell'Uganda con i donatori, con la comunità internazionale e nemmeno la sua posizione nella lotta all'AIDS. È interessante notare che anche nessun politico dell'opposizione ha strumentalizzato la legge. Abbiamo avuto notizie di politici locali che hanno accennato a temi omofobi nella loro campagna elettorale, ma si tratta di casi isolati. Vedere che i politici ugandesi non strumentalizzano la lotta alla comunità LGBT è un dato incoraggiante per l'Uganda, dato che in molti altri paesi africani accade il contrario. Fear of homosexuality. And maybe in some cases they're realizing that it doesn't work as well as they think it will. E beh, certo, perché potete immaginare importanti attori internazionali come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti di fronte a questo dossier, le loro pressioni evidentemente le avranno fatte sul presidente Museveni. Poi però c'è una domanda da farsi, perché a livello culturale e nella vulgata l'omosessualità in Africa è assolutamente rifiutata. Spesso sono culture maciste in cui questo tema è assolutamente tabù. Però sentite che cosa ci dice la ricercatrice di Human Rights Watch su questo punto. Africa is a huge continent and like you said it's really hard to generalize. L'Africa è un paese enorme ed è molto difficile generalizzare. L'omosessualità e la fluidità di genere sono state trattate diversamente attraverso il continente e le generazioni. Dalle ricerche antropologiche emerge che in età precoloniale omosessuali e trans erano accettati in molte culture africane e spesso ricoprivano ruoli positivi. È col colonialismo, in particolare quello britannico, che l'omosessualità inizia a venire percepita in modo negativo e si diffonde una grande omofobia sia nella società sia nelle leggi. Questo processo non è avvenuto allo stesso modo nelle colonie francesi e portoghesi, come per esempio il Mozambico, che si sono rivelate più flessibili e aperte. A parte queste differenze, comunque, la credenza che l'omosessualità sia qualcosa di non africano è stata veicolata dai politici quasi ovunque nel continente e molte persone sono cadute in questa trappola. Beh, è interessantissimo questo commento su quello che è un'eredità del periodo coloniale e di come la cultura del paese dominante abbia plasmato anche quella ovviamente del paese poi colonizzato. Torniamo a Frank Mugisha, attivista e fondatore di Sexual Minority Uganda, a cui richiediamo un bilancio della situazione, soprattutto dal punto di vista legale della comunità gay oggi in Uganda. Oggi la legge passata nel 2014 che prevedeva la pena di morte per il reato di omosessualità non è più in vigore. Oggi c'è una legge che criminalizza l'atto sessuale omosessuale tra due adulti. C'è da 15 anni. Comunque continuano ad esserci politici nel nostro Parlamento che minacciano di reintrodurre una legge simile a quella del 2014. Si tratta di una proposta populista per ottenere sostegno da molti ugandesi, ma per noi omosessuali rappresenta una minaccia. Più aumenta il numero delle persone a favore di questa ipotetica legge, maggiori sono le possibilità che venga adottata. Siamo in una posizione di incertezza e paura. In realtà, sono stato a Kampala anche molto molto di recente, esiste tutto un pensiero, in realtà soprattutto degli espatriati, quindi stranieri, che dicono che tutta questo dibattito in realtà sull'omosessualità è un po' costruito soprattutto dai giornalisti, perché alla fine nella vita quotidiana i gay e le lesbiche in Uganda possono tranquillamente vivere senza troppi problemi. Questa è opinione appunto di alcuni osservatori però stranieri. Sentite che cosa dice invece in proposito il nostro attivista ugandese. La situazione in Uganda è molto diversa. Se sei omosessuale puoi tranquillamente abbracciare e camminare mano nella mano col tuo partner e nessuno ci fa caso perché tutti lo fanno. Il problema è quando appari diverso dagli altri, per esempio se sei transgender o se metti in mostra la tua omosessualità in modo esplicito. In quel caso attrai molta attenzione e talvolta insulti verbali o violenze fisiche. La tua incolumità è a rischio e non è esclusa la possibilità che tu venga picchiato o ucciso. Questa è la situazione soprattutto ad Uganda, a Kampala, che è la capitale appunto dell'Uganda, che è una grandissima città dove forse le dinamiche sono anche un po' differenti. Come cambia la situazione invece nei villaggi e nelle aree rurali? Pensate a giorni e giorni in macchina su piste piuttosto difficoltose in villaggi fatti da poche decine, poche centinaia di persone. Ascoltate. È molto difficile perché ci sono meno informazioni e capacità di comprendere l'omosessualità. Gli abitanti dei villaggi non fanno coming out perché sanno che subiranno discriminazioni e temono la reazione di amici e familiari. Inoltre temono anche di finire in prigione. Nelle città invece, più affollate e con maggiore istruzione, c'è meno omofobia, ma allo stesso tempo è più facile essere aggrediti. La voce che sentite è quella di Frank Mugisha, un attivista gay ugandese, fondatore appunto di questa Sexual Minorities in Uganda, che si occupa fondamentalmente di aumentare il livello di coscienza nel paese e diminuire lo stigma sociale di cui soffre la comunità. Però a lui ho chiesto qual è alla fine l'obiettivo finale della sua associazione, perché c'è un grande dibattito in Europa e non solo sull'adozione ad esempio dei figli, sul matrimonio che in alcuni paesi oramai è consentito. Quali sono le richieste? C'è anche il matrimonio, per esempio, sentite. Non stiamo pensando al matrimonio ora, ma certamente vogliamo che in futuro a tutti vengano assicurati gli stessi diritti anche in questo campo. Tutto ciò che chiediamo è di avere la libertà di essere ciò che siamo, di andare in chiesa e in ospedale senza essere discriminati, di affittare una casa senza che il padrone ci cacci, la libertà di andare al mercato e nei negozi senza essere picchiati o arrestati dalla polizia, la libertà di fare il Pride. È molto difficile organizzare il Pride e altri eventi LGBT in Uganda. Bisogna essere coraggiosi. Quest'anno abbiamo cercato di pianificare il possibile e di avere il sostegno della polizia per rendere la manifestazione più sicura. Il nostro scopo di medio e lungo periodo è anche eliminare le leggi omofobe e la possibilità di una reintroduzione della legge del 2014. In questo contesto, il matrimonio tra gay rimane un obiettivo desiderato, ma molto lontano. That one may come many years ago, but for now we're not thinking about. E il tema del coraggio è particolarmente stressato. Se voi andate sull'hashtag su Twitter, hashtag Uganda Pride, o cercate anche appunto Frank Mugisha sul suo account Twitter, vi sono molti messaggi di sostegno, perché in effetti la sua è una battaglia particolarmente coraggiosa. Forse il primo atto vero di coraggio per un gay, per una lesbica, è la dichiarazione, il cosiddetto coming out. Sentite la reazione dei familiari di Frank Mugisha. Ho fatto coming out a 13-14 anni. A quei tempi non c'era così tanta omofobia in Uganda e la mia famiglia col tempo mi ha capito e ha accettato. L'odio verso i gay è stato portato più tardi dall'estremismo cristiano proveniente dagli USA. Ma per una persona che ha oggi 14 anni è molto difficile fare coming out, perché la sua famiglia lo ripudierà, gli impedirà di andare a scuola, lo picchierà, magari lo inviterà al suicidio. Possono succedere cose terribili. Le lesbiche vengono aggredite e obbligate a fare sesso con i propri parenti per dimostrare a tutti che sono lesbiche. È un momento terribile per fare coming out. E con la voce di Frank Mugisha si chiude questa seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Noi ci risentiamo subito dopo l'informazione sul traffico. Restiamo in Africa, andiamo in Repubblica Democratica del Congo. Nessun luogo è lontano. E sulle note è la voce di Papa Wemba, recentemente scomparso, lo ricorderete, a fine aprile di quest'anno. Apriamo l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, dedicata a un altro dei paesi della regione dei Grandi Laghi, il Congo, Repubblica Democratica del Congo. Perché questo weekend, che è stato un weekend particolarmente denso di notizie internazionali, a Kinshasa ha fatto la sua riapparizione in pompa magna Etienne Tshisekedi, il grande oppositore, lo storico oppositore di Joseph Kabila. Di questo parleremo con Donatella Rostagno, direttore di EURAC, la rete di ONG che fanno analisi sull'Africa centrale. Donatella Rostagno, buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie. Allora Donatella, fra l'altro noi ci conosciamo, abbiamo lavorato insieme, possiamo evitare i convenevoli troppo formali. Io e Donatella ci siamo incrociati più volte in Congo, anche prima del 2010-2011, tempo delle elezioni, eravamo a Kinshasa e lì incontrammo proprio Etienne Tshisekedi. Lì all'epoca si diceva che politicamente era morto, ormai 83enne, era la sua ultima occasione, invece guarda un po', sembra che stia riaggruppando tutta la composita e variegata opposizione congolese. Prima di solleticarti su questo, Donatella Rostagno, ascoltiamo un attimo il ritratto di questo gigantesco e grande, con una storia estremamente tormentata, paese che è la Repubblica Democratica del Congo. La Repubblica Democratica del Congo, anche nota come Congo Belga o Congo Kinshasa dal nome della sua capitale, è il paese francofono più popoloso dell'Africa centrale. Dopo aver raggiunto l'indipendenza dal Belgio nel 1960, il Congo è sempre stato attraversato da conflitti interni, fino a raggiungere una relativa stabilità politica sotto il governo di Mobutu Sese Seko, già capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Il suo regime durò incessantemente per quasi 30 anni, ribattezzando lo Stato in Zaire, osteggiando il culto del cristianesimo e stringendo buoni rapporti sia con la Romania di Ceausescu che con gli Stati Uniti. Nel 1990 Mobutu accettò di condividere il potere con un parlamento multipartitico, ma questo non bastò per fermare la rivolta civile che portò alla prima guerra del Congo nel biennio 96-97. Il conflitto scaturì tra le forze ribelli ugandesi e ruandesi coalizzate sotto il comando di Kabila, che sconfisse Mobutu, costretto quindi a fuggire in Marocco. I motivi della guerra erano soprattutto legati alle risorse minerarie presenti sul territorio congolese. Kabila si proclamò quindi presidente del Congo, governo sanguinoso famoso che durò fino al 2001, quando fu assassinato. Durante il suo mandato, il Congo attraversò una seconda guerra civile, tra il 1998 e il 2003, conosciuta come la Guerra Mondiale Africana, perché coinvolse ribelli Tutsi, organizzati in gruppi armati con Ruanda e Uganda, contro il governo di Kabila, spalleggiato da Angola, Namibia e Zimbabwe. In tutto furono coinvolti 6 paesi per il controllo dei ricchi giacimenti di diamanti, oro e coltan del Congo orientale. Le stime parlano di almeno 350.000 vittime dirette e più di 2 milioni contando anche i morti per carestie e malattie causate dal conflitto. Alla morte di Kabila gli successe il figlio Joseph, che affrontò nel 2006 le prime elezioni democratiche in 45 anni di storia congolese. Il 31 ottobre di quell'anno Kabila andò al ballottaggio con Jean-Pierre Bemba, leader dell'opposizione, che venne sconfitto. Le elezioni furono legittimate anche dagli osservatori internazionali, ma questo non evitò violenti scontri nella capitale tra le due fazioni politiche. Nelle ultime elezioni del 28 novembre 2011, Joseph Kabila è stato riconfermato presidente della Repubblica Democratica del Congo, con il 48,95% di preferenze, contro il 32,33% del suo oppositore Etienne Tshisekedi. E la terza tornata elettorale si sarebbe dovuta tenere entro quest'anno, entro questo autunno. Donatella Rostagno, direttore di EURAC, un primo commento su questo giallo, su questo mistero, su queste elezioni che si terranno o non si terranno. Significherebbero il terzo mandato, la terza ricandidatura per Joseph Kabila. Ma sì, effettivamente le elezioni dovrebbero tenersi quest'anno a fine novembre. Il secondo mandato di Kabila scade infatti a fine novembre, diciamo tecnicamente il 19 dicembre, quindi è dal 20 dicembre Joseph Kabila non dovrebbe più essere presidente. Al momento attuale sembra molto difficile immaginare che ci possano essere delle elezioni. La Commissione elettorale nazionale indipendente del Congo ha dichiarato proprio ieri o l'altro ieri che non potrà organizzare le elezioni secondo il calendario previsto per delle questioni tecniche, perché non sono il lavoro di organizzazione delle elezioni ancora non è stato praticamente iniziato, e quindi le elezioni nel 2016 sembrano un po' difficili al momento. Ecco, questo ritardo sembra e suona un po' colpevole. Fra l'altro c'è anche un mistero proprio sulla compilazione delle liste elettorali, no? Nomi che non tornano, morti che potrebbero votare, un qualche 10 milioni di neo-diciottenni che però misteriosamente non vi sono nelle liste elettorali. Tutto ciò suona come un tentativo del presidente Kabila di restare al potere. Sì, esatto, soprattutto se consideri che questi sono dati di cui si ha conoscenza e si era a conoscenza già nel 2011, cioè nel 2011 quando ci sono state le elezioni si poteva immaginare che le liste elettorali dovevano essere messe, riaggiornate sulla base, come si fa insomma in paesi normali, sulla base dei decessi e sulla base dei nuovi maggiorenni. Questo lavoro non è stato fatto, e quando l'Unione Europea nel 2014 e l'Organizzazione Internazionale per la Francofonia nel 2015 hanno dichiarato che le liste elettorali non erano accettabili, la Commissione elettorale ha utilizzato queste dichiarazioni della comunità internazionale come scusa per ritardare l'organizzazione delle elezioni, dicendo che le elezioni al momento non si potevano organizzare proprio perché un lavoro doveva essere fatto per riaggiornare insomma queste liste. Il lavoro però non è stato mai iniziato, quindi ci sono i ritardi, evidentemente queste questioni tecniche poi si legano molto alle questioni politiche. Certo. In Congo, e la questione politica è quella che vuole, secondo la popolazione congolese, il presidente della Commissione elettorale nazionale essere una specie di burattino del presidente Kabila, no? Sì. E quindi è ovvio che la percezione della popolazione è quella di dire: le elezioni non si organizzano, le liste elettorali non sono pronte, Kabila sta facendo di tutto per non organizzarle. Sì. E in quel caso lì, in cui non si tenessero le elezioni, Kabila formalmente e anche operativamente potrebbe rimanere al potere. È quello che preoccupa Etienne Tshisekedi, il suo storico avversario, che proprio domenica ha tuonato: Kabila se ne deve andare. Quanto, te lo chiedo sinteticamente che siamo in chiusura, quanto temi che vi possono essere eventi anche violenti tra novembre e dicembre, nel caso in cui, ed è molto ragionevole, non vi saranno appunto le elezioni? Super sintetica, Donatella. Guarda, lo tenevamo prima, ma dopo domenica lo teniamo ancora di più, nel senso che abbiamo visto decine di migliaia di persone riunirsi di fronte a Tshisekedi, il che vuol dire che c'è uno stato di scontentezza della popolazione che è arrivato a dei livelli molto alti, il che può far pensare effettivamente al peggio. Grazie mille, Donatella Rostagno, direttore di Eurac. Buona giornata, buon lavoro. Per noi, titoli di coda. Con i quali ringrazio Andrea Roccabella in regia, Antonio Talia, Eleonora Aragone, Silvia Mannati in redazione. Voi che siete stati all'ascolto, vi ricordo anche che l'appuntamento è questa sera alle ore 21 per la replica, oppure c'è il podcast su www.radio24.it. L'appuntamento è domani ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.